ваш адрес. Улица Железнодорожная, дом 9, автоцентр «Прогресс». CQ канале 10, c'è qualcuno in ascolto? CQ 10. Retrogrado, diglielo giù. Ciao, bacca le dai, ragazzi. Ma quando mai, ragazzi? Non è possibile, ragazzi. Ma io non so perché questo mi piglia e sta contenti senza dire una parola, contenti solo un rumore in fondo. E tu muovi la musica, una parola è un sogno. È una vagogna, ragazzi, una vagogna solo, ragazzi, bacca le dai. Vabbè, sai che se siete a questa no, che allora ti conviene vendere tu davvero. C'è l'equipo, ma io sapevo che la mentalità è un concetto che fanno senza niente, ma non è importante, e poi lo fa vedere, se vedi che sono muti come te lo becchio. Ah, ma quel canzone da sai se non manca ne mai, è vero. Ma basta di imbecilli, so, che ti passano così, cosa che sia, e lui che faccia, noi tocca te la lunga. Chiara. Oggi al mare non sei andato? Non c'è nessuno, sono tutti al mare, non lo sai. Oh, la mia già un quarto d'ora fa, io cosa? Perché all'inizio ho fatto le ore piccole, dunque mi sono voluto due trattini. Però sono scendato dall'ultimo, pure prima. Ah, ecco, è così che è niente mare. Mare, e mare si caccia qualcuno. Io da su. Allora, ma come ti accompagnare il pesce? Come sempre. Oh. Fra poco è Natale, vogliatevi bene. E a Londra, siamo subito a Natale, bisogna volersi bene. Non è possibile. Sono tutti a farsi la settimana bianca, non hai capito? Ma io sbatto sempre ancora su quel chiodo lì. Oh, la portata lo fa vedere. Ma cosa si crede? Di superiore all'altri? Sicuramente inferiori, io li considero. Non superiori, inferiori, io li giuro lì. Certe persone li considero. Intanto vedi, dico quella scusa a voi, entro io, entri tu e ascolta, a gratis. Così, allora, boh, quella cosa vale. Ma che tanto lo mettiamo 10 minuti e dai, se ne andiamo a fare le cose. Ascolta, ma mammo. Mammo mia, così era cotto. Antonio non c'entra più, no. Mi sa che Antonio a Sarrado. A Sarrado, bombolino. Apri, buono, urinare, dai. Questi erano manco i fratelli, tutta la zona di casa tua. Allora, non si può attrevere. Che lo seccano subito. Ecco, poi se vedi i droni sono di cari intendi, non di cari manda. Certo, mi hanno mandato una registrazione, si è accappato a riso. Cos'è mandato? Come ti mi ho battato la bocca tu però, prima di proprietà. Mi hanno mandato una registrazione. Le hanno mandato una registrazione? Ma chi, a lui o a te? A me, mi hanno mandato una registrazione, mi si è accappato la risa. andiamo bene. La registrazione la gira bella, se ce l'hai tu questa registrazione gira bella, così me ne posso io pure una risata. Piace la gente sta d'accordo, prima a pigliarli non li piace, capisco come sta la musica. Non è possibile. Vabbè dai, usa un microfono più chiaro, perché sei con un battassi, cotto sotto alla vicina, in bocca. Contento sì. E allora hai sentito quello bello squillo? Questo è uno squillo, almeno. Squillo a chi? A me? Non ho mai fatto squillo io. No, un squillo di microfonico. Con l'attacco. Attacco stacco. Registrazione, io non ci credevo, e poi mi ha detto, capo sa guarda che per il golpe io, che non di gonda. Ma il golpe sono di cari imprese, non di cari manda, purtroppo così, cosa vuoi fare, essendo molti vicini i colpi ci sentono, ma è normale, no? È normale, per cui, girami la registrazione se vedrai, voglio farmi una piccola risatina, o risatona. Ti ho mandato. Spero che Cantonio non si sia veramente, che abbia chiuso le comunicazioni, no? Spero di no. Ma è tanto semplice, parlare sempre nello stesso, sullo stesso canale e basta, non se ne parla più. Comunque i colpi se li dai li prendi anche, non è che non li prendi, no? Sicuramente è così, per cui è una cosa reciproca. Una divisione di custolati. Ma non sei convinto che li pigliano il giuro e non le raggiano? Come le dai li prendi? Non è che io devo usare i chivi, oppure io ho grugamente i miei piatti. Come te li pigli tu? Li pigli una bes, che la cosa è reciproca. Certo che sì, ci mancherebbe. Però il buon senso, diciamo che dovrebbe essere quello di parlare tutti nello stesso canale, così almeno nessuno si sentirà disturbato. Io penso così, tu mi dirai, ma non è detto che uno debba per forza parlare su qua, ma almeno se non altro allontanati di una ventina di canali, non si va a vedere più, un po' di attenuazione, cioè, poi quell'altro dovrà abbassare il FG per sentire di meno, anziché ricevere 9,20, ne ricevi Santiago 5, probabilmente mi senti anche se con un leggero disturbo, però mi senti lo stesso. Le russi, ucraine, cosa so. Sì, ma Giulio, se io sono già in un canale parlando con te, non è che sono obbligato dopo, se sento qualcuno su un altro canale, per forza andare lì o stare in ascolto lì per non disturbare a quello. Io uso Guglielmo qui. Sicché se lui ti arrangia, io giro di bocchi giro e non intendo bene nessuno, ma così verrà già attaccato. Ma così mi si il posto di un canale, a destra, a sinistra, sempre in centro sono voglio. Solo per quello, un po' per la distanza, un po' perché ho quella possibilità di fare, di attenare e di operare in quella maniera. Ma tu non c'è nessuno vicino, Giulio. Non ti farò la prova perché non hai nessuno lì attaccato, capito? Attaccato nel senso così come siamo noi. Non c'è nessuno, chi c'è? Nessuno, così che sei fortunato. Non dipende, uno se c'è l'hanno le radio serie, no? Basta usarle. E invece no, preferiscono lamentarsi. Cosa vuoi fare? Chi si lamenta vuol dire che ha fiato inutile da spaccare, perché tanto non è che puoi imporre ad un altro di fare quello che vuoi tu, questo è ovvio, però diciamo che un po' di buon senso da parte di entrambi non guarda. Se ci si va d'accordo? Sì, ma se io non ci parlo con una determinata persona che c'è in quella ruota, che devo baffo centrare su canali? Quando sono in un altro canale con un'altra persona devo mettermi il problema di cosa? O di stare in ascolto o per forza di entrare in quel canale dove sei tu, cioè non hai compreso. Giusto, infatti è così, questa è una discussione più che logica, non ci sono dubbi, però diciamo che almeno allontanarsi e usare il minimo della potenza per cercare di agevolare e non disturbare gli altri interlocutori. E se no metti radioserie che ci sono, capito, invece te ne le spente, uno mette la radioserie, accende la radioserie ed ecco che no, il problema è risolto, invece è data radio di pigliare i golpi in tutti i canali. Quello è vero, bisogna utilizzare una radio appunto che sia filtrata discretamente, che non consenta di raccogliere tutta la mondezza che c'è in aria, certo che è così, però ripeto, cosa vuoi che ti dica? Sento Gabbi, sento Barretti, quel proverbio non si smentirà mai. Sento Gabbi, sento Barretti, o sento Gabbi di Muccio. Addirittura. Guarda che già entra Antonio, sa coccato ancora. Avrà fatto un ripetto, Se stava lavorando, ha fatto bene che si trattiene ancora un po' a riposare, ci mancherebbe altro, gli alubini. Vabbè, comunque. Fate mobisi, come si diceva una volta, e io posso racconto mio, da voi l'altro posso racconto su io, per cui problemi non ce ne sono, e non me ne metto di quei problemi. Non fai bene, infatti. Come te lo dice a canzoni? La lontananza sai. Fatti così, boh. Nicoso, di Modugno, la canzone di Modugno di Biasese. Vabbè. Canta. Però a squarciagola, così almeno ti sento bene. Se sei intonato, se sei come te la campana di Santa Maria. Forse sei la seconda. No, io so come te lo campanile di rubate caro invece, penso un po'. Adesso il babbo non si piacerà tu. Poi mi ha giocato una sul particolare. E di solito più, quando canto uno più di solito. Oggi hai la musica sassarese e non ha piovuto, anzi c'è il sole, c'è il vento, ma c'è il sole. È acceso, ma la bassa il volume è qui, è acceso. Ecco, capito, lo metto su, da un pezzo. Abbassiamo di nuovo. Così, abbassiamo di nuovo, vai. Tanto di questo dura fino a mezzogiorno e mezzo. Dove la vedevo in aggiubisco, c'erano quei giornali, stavano a mettere un tesi giammani e erano lì al cimitero e stavano girando per le tombe di tutti questi appunto cantanti e gente famosa, comunque assessori di Sassari e cantanti appunto sassaresi, hanno già tutto campusanto facendo vedere chi era, parlandone di questi personaggi che sono stati per Sassari una cosa molto importante. Certo, per Sassari, per la cultura della canzone sassarese già ne abbiamo avuto tanti, Toni del Drò, Giovannino Giordo, Giuseppe Fiori, Russetta e tanti altri che avevamo, ma che mette bene, Toso, Giovanni Santoni, Gio Maria Santoni, grande voce, grande tenore, veramente uno dei primissimi, una grande voce veramente, però ce ne sono tanti, dai, ce ne sono diversi, la maggior parte sono curracci cantanti, però diciamo che ce ne sono bravi, veramente bravi, dai. Ormai non ce n'è più, ormai sono tutti giovani che stanno comunque cercando di mandare avanti la tradizione, però quelli Ruzzetta, Giovanni Giordo, prima di quelli credo non ce ne fossero altri. Già ce ne sono, dai, ancora già ce ne sono di scritti, adesso i nomi a me non mi vengono in mente, ma già ce ne sono ancora diversi, tipo la metto, ma io altro la dove la cantendi, allora me la metto. di Madrid, ma stessi più o meno, intorno ai 70 anni, siamo lì. Ma morti questi, secondo me, è una mia opinione, morti quelli lì, è morta un po' la canzone sassarese, anche se giustamente i giovani cercano di mandarla avanti con nuove canzoni, eccetera, eccetera, però non è più come prima, secondo me. Infatti, poi mi sono ricordato di Giuseppe Pilas, quello che abitava alla Tenoce, anche quello, uno dei bravi, veramente. Ce ne sono ancora bravini, dai. C'è Gianni Paolesu, Galleri, c'è Luciano Galleri, poi l'altro come si chiama, non me la metto, boh, non mi vengono in mente questi nomi, anche perché non me la faccio. E devo mettere nessuna presunzione, ci devo mettere anche mio fratello che è bravo, non perché mi vuol dire, ma perché è bravo, ho detto da altri, da gente tipo che so io, Giovanni Giorgio e tanti altri. È una grande passione. Come sta morendo Sassari il Vecchio, le tradizioni, la vendita di lumache per le strade, lì, cioè, è morta la canzone anche un po'. Tutto con le tradizioni ormai non ci sono più, una volta si sedevano lì in Via Mulaglia, all'angolo di Via Mulaglia, in Via Rosello, là, e ce n'erano delle cette, a volte lo chiamava Fariniti, le Fariniti di Raffia, piene di gioga o di cucuello o di funghi, però oggi la gente ha preso l'abitudine di andare a prendere i funghi e poi si avvelenano, come è successo un paio di giorni fa, quelli di Alghero, anzi uno di Sassari di Alghero, e poi ha regalato anche dei funghi a dei parenti, meno male che quelli non li hanno cucinati e sono subito andati ad avvisarli che non si sono sentiti male perché il fungo era avvelenato. Dico io, se non dobbiamo andare a funghi, perché ci vai? Ma vai a comprare giardini, a parte il fatto che a me non mi sono mai piaciuti, no? Perché per me è solo erba, il fungo è un mangiare degli animali, per conto mio, tra virgolette, senza offendere nessuno, perché per me è erba, è buco. Se il fungo è erba, cos'è la bietola allora, Giulio? Pure la bietola, caspita, soprattutto nei ravioli, caspita, la fine del mondo, anche mangiata così, bollita, un po' d'olio, un po' di sale, che c'è, no, se non si conoscono, uno è che va a raccogliere il primo fungo che capita. Ma a parte le solite spezie, che come per dire che so io, aglio, prezzemolo, anche le bietole, queste cose così, ma voi tutte le altre cose a me, a me se non è pianta nella stessa cosa, anzi, devo dire, almeno non li sento nemmeno nominare, ma i funghi a me non mi sono mai piaciuti, sì, li ho sempre mangiati, non è che ne ho mangiati, però io mangio quelli coltivati intanto quando mangio i funghi, non certo quelli comprati dal Vinco Pallino qualsiasi, da un randaggio che si è posto magari in una piazzetta, con la balinita a vendere i funghi, senza magari essere controllati, ma vai, papiazzini, bisogna essere anche intelligenti, tante volte nella vita, no a vivere ad occhi chiusi. No. E prima quando si comprava così, Giulio, la zea, appunto le lumachine, e poi la gente le comprava e le mangiava, ma la zea l'abbia cucciata da casa, tutta abbisciata dai gatti. Sì, non so, ma tutte le piante per quello sono pisciate dai cani e dagli animali in genere, ma siccome si lava bene, si lava, e allora problemi non esistono, allora se per quello anche il pesce, tu vanno a mangiare i pesci, e invece deve lavare, deve pulire bene la carne è lo stesso, la deve lavare come se si deve, ma che tu li vedi nelle macellerie cadono bistecche o fettine per terra, le raccolgono, muore in andare al banco, e dopo magari va tutte le mani binghilosi, tutti gli alimenti si devono lavare, ci vuole pulizia, se la puoi è poco uno, e ringrazio e basta. Io pure quanti c'è che toccano la carne, poi ti toccano i soldi, ti danno il resto senza braccianti né nudo, ma io ho notato una cosa, sarà una mia... Allora, qua ci sono delle macellerie qua vicino a me, tu passi, e sono sempre viuti, passi un sabato, ieri mattina sono passato lì, per andare a coso delle analisi, no? Per fare dove faccio i prelievi, no? Ed era di Reggio, mi pare, una cosa del genere. Lui era una macelleria che fino a poco tempo fa era a chiusura, tu sei andato a di 7:30, ma all'8 di mangiarlo, ma c'è stata di lungo entrare. In questo periodo non vede più nessuno, ma anche quella sotto casa di mia suocera, sempre più da. Ma niente la carne, deve comparendi, quando prima non si buddia, soprattutto il sabato, non si buddia manco entrare i macelleri a fare la spesa che dovevi migliorare. Addirittura quella roba metteva i numeri fuori, ma non vede nessuno. Certo, nei locali dove si vedono alimenti ci vuole anche una certa pulizia, soprattutto per attirare la gente. La gente non manca, la gente guarda, magari non te lo dice nemmeno. Però lotta, e se vede che una cosa non gli va, non ci va in quel posto a comprare. Io una volta mi ricordo, ad esempio, guarda, ai tempi di Città Mercato, prima ancora, e mi ricordo che stavo parlando con un amico, che è soldato, il padre di un ex CB che lavora in campagna, contrattore eccetera, forse hai capito di che sto parlando, e poi adesso purtroppo è deceduto, è morto questo, e abbiamo visto il topo uscire da uno scaffale e entrare in un altro scaffale, proprio nei paraggi dove c'erano gli alimenti. Ma dico io, caspita, ma ti sembra tu che un locale come Città Mercato debbano vedersi certe cose? Ma vuoi scherzare? Ma perché lì? Sì, ho visto su Facebook il topo nella vetrina dove all'interno ci sono il pane, le paste, mettono il video. Cattabu, ma quando mai? Ma comunque, ma tu credi che io al Mahado nuovo non ho visto che mai entrato, non mi ha mai attirato a entrarci, dice che forse lo rifacevano come era prima il mercato civico, il Piremmo, a me non ha manco mai attirato a entrarci per curiosità, la giubito mi gusti da vola bassendi, ma entrarci dentro non mi attira. Se il mercato di una volta, guarda, ci andavo, una volta a settimana ma ci andavo, ma era tutta un'altra cosa, era. I tempi stanno cambiando e bisogna accettarli. Non è possibile, guarda, non è possibile. Io certe attività mi hanno raccontato persone che ci lavoravano all'interno di certe attività. Le cadeva la cosa per terra, la raccoglievano e la mettevano in vendita così. Ma quando mai, capita? Adesso cade per dire che so io. Da panettiere te lo dico, guarda, soprattutto non si combina che vivi dentro ai benefici, tu non lo vedi, ma io ho lavorato a Sassi, a Porto Torre, Sassi Innori, a Predanieda, guarda, trovarne uno veramente pulito, igienico e tutto, lascia perdere giù. E quello appunto che vediamo, e quello che non vediamo è che c'è da spaventarsi. Guarda giù, io te lo lascio ora, che ho sistemare in terrazzo, che stavo facendo roba, visto che la giornata lo consentiva. Ma guarda che nella casa dove abitavo prima, di fronte c'era un negozio di generi alimentari, che poi tra l'altro avevano anche il forno del pane, facevano il pane. Capito, era lì, avevo un panino, e dentro cosa c'era? Ma fortunatamente l'ho tagliato prima, e era la catalana, ma quando mai tu mi fai trovare lo stai a fare? Sono andato, gli ho fatto le voci che mi hanno inteso, il mulino a vento mi hanno inteso come minimo. Non ti vergogno, guarda, non ti chiamo i carabinieri proprio perché sono una persona seria e capisco che stai lavorando, però devi essere onesto tu lavorando, non pinghiroso come ti sei comportato. E questo era un panettiere di fronte più a Sassari, allora se ne è andato a sentire, se ne è andato. Poi dice, avevo lo scarafaggio del pane, avevo trovato. No, a me c'era che si voleva prendere imbottito, si era dimenticato. Ciao oggi, ciao ciao. Con la vagogna, la pacare dai, oh, io non accetto, è difficilmente io vado in un ristorante, ma che so, come sono puzzilosi. Io avevo un amico, avevo, che purtroppo adesso aveva la mia età più o meno, ma è deceduto da parecchi anni. E faceva il cuoco, faceva. E un giorno sono andato proprio da lui in cucina. Ce l'aveva, sai dove ce l'aveva la cucina? In via Beccaccia Sassari, dove c'era il Bartolino, sopra il Bartolino c'era questa cucina. Tu dovevi dire, una pasta asciutta, ah va bene, arrivi via, c'era la pentola che stava sempre in ebollizione, no? Mezzo caldo, si entrava le mani e prendeva la pasta asciutta, la prendeva con le mani e la metteva nel piatto, la confezionava col sugo, eccetera, no? E la presentava al cliente. Ma dimmi tu se io cose da fare, non lo puoi mettere, non lo puoi usare gli attrezzi e gli utensili adatti per prendere la pasta, hai bisogno di intrarsi la mano, che magari prima di intrarsi la mano hai tagliato la carne, che la carne non l'hai lavata, eccetera, eccetera. Ma per dirti no, sono puzzinosi questi cuochi, la maggior parte sono puzzinosi, già ci sono quelli seri, quelli puliti, già ci sono, altro che. Stai telefonando, stai già giù. Мой счет 900.